Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo anche oggi in diretta, oggi sabato 30 luglio, mancano qualche secondo, ecco no, proprio in questo momento sono le 15 a Radio 24 e noi ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Anche questo sabato in diretta potete sempre contattarci al 349 238 6666, numero per i vostri sms e per i vostri whatsapp, ma c'è sempre anche il mio account di twitter @MartaCagnola e l'hashtag cancelletto ISDV. Staremo insieme per tre ore. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ora scopriamo i temi della prima ora dell'ultima puntata che passeremo insieme prima delle vacanze. L'appuntamento con il gastronauta, chissà cosa ci fa scoprire in questo ultimo appuntamento con il nostro Davide Paolini. Poi parliamo di tecnologie, ovviamente con Enrico Pagliarini, parliamo delle 10 cose da avere in vacanza. Ma prima dobbiamo parlare di quest'estate di grande sport. Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada me faz, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa. Allora, Auma e Coração, loro sono la star del samba Thiaguinho con la collaborazione del rapper Projota. Ovviamente i nomi sono tutti brasiliani, Auma e Coração è praticamente è anime core, direi. Allora, ci trasferiamo subito in Brasile, o meglio, da chi sta facendo le valigie per il Brasile. Lo abbiamo disturbato in qualche giorno di vacanza, perché anche lui è una notizia, va in vacanza. Buongiorno al nostro Dario Ricci, ciao Dario! Ciao Marta, un saluto a tutti. Non è che mi piaccia tanto quest'inno, non è che mi faccia impazzire questo inno olimpico, però vabbè, ci abitueremo ad ascoltarlo, questo anima e cuore. Dario, io ti chiedo subito, siccome so che agli ascoltatori incuriosisce, abbiamo seguito i tuoi spostamenti per quanto riguarda gli europei di calcio, adesso invece sei in partenza per le Olimpiadi, racconta un po' quando, come, con quante valigie? Ah, ma guarda, devo dire che il bagaglio sarà abbastanza spartano, perché... Non come quando io parto per il Festival di Sanremo con una valigia solo di scarpe, no? No, infatti, no, cercherò di essere un pochino più contenuto, perché poi in realtà è meglio andare leggeri, anche perché poi il meteo tutto sommato dovrebbe venirci in aiuto, perché sì, è vero, è l'inverno brasiliano, ma... A Rio le temperature dovrebbero essere intorno ai 25 gradi, grado più, grado meno, quindi insomma ben diverso dal nostro, quindi sì, le infradito ci sono sicuramente, anche se non credo che ci sarà molta occasione per utilizzarle, perché poi le Olimpiadi, lo sai bene Marta, hanno un ritmo, quello sì, veramente brasileiro, si parte la mattina alle 8 e si finisce spesso la sera a mezzanotte, si cerca di vedere il più possibile. Tu salti da uno sport all'altro, da una disciplina all'altra in continuazione? Sì, faccio un po' l'all around dell'olimpico, che è sicuramente la cosa più bella, insomma, anche perché poi dal punto di vista professionale per noi è l'occasione per imparare anche molto, perché si entra in contatto con gli sport che poi si frequentano meno, no? Certo. Dal tiro al volo, al windsurf, a volte si studiano regolamenti mentre ci si sposta sull'autobus da un sito olimpico all'altro, perché... Beh, ci sono tutto... sport che non si frequentano se non ogni 4 anni, ai noi sempre... purtroppo. E poi c'è sempre, Marta, questa è una regola un po' olimpica, la medaglia che non ti aspetti, no? Cioè quella mattina che dici, vabbè dai, oggi provo a dormire mezz'ora in più, oppure provo a fare un attimo un salto a Copacabana cabana per vedere l'atmosfera. Sì, certo, l'atmosfera, punto... si chiama atmosfera, sì, chiamiamo l'atmosfera. E poi invece arriva la medaglia dello sport con t'aspetti, e quindi devi precipitarti allo stadio in costume, asciugamano sulla spalla per andare a recuperare la notizia, l'intervista. Dario, regole d'ingaggio invece per il futuro telespettatore italiano. Le vedremo in TV in orari... Come saranno gli orari per gli italiani? Devo dire un po' particolari, perché il fuso orario credo un po' in generale un po' ci penalizzi, perché siamo 5 ore avanti, come si dice, quindi diciamo al nostro mezzogiorno sono le 7 del mattino a Rio, quindi la giornata olimpica, che pure inizia presto, entra nel vivo quando da noi è già il tardo pomeriggio, quasi la tarda sera, quindi preparate anche abbondanti dosi di caffè, sveglie notturne, li vedremo sui canali della Rai, quindi quello che la Rai deciderà di mandare in chiaro, e poi chiaramente anche su Rai Sport, insomma, diciamo più sui canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 tradizionali, e poi su Rai Sport, e quindi preparatevi, ecco, a sveglie notturne nel cuore della notte. Qualcuno approfitterà delle ferie, già tra i miei amici hanno già preparato la famiglia a queste alzatacce, che però una volta ogni 4 anni è anche bello fare, ecco. Sono d'accordo, poi è estate, la notte fa fresco, poi noi insonni ne godremo con gioia. Dario, invece, ovviamente per la radio tutti gli aggiornamenti tuoi su Radio 24, immagino che il primo criterio di scelta saranno gli italiani, è normale per quanto riguarda le Olimpiadi, andrai a scoprire soprattutto i nostri connazionali, cosa dobbiamo tenere d'occhio? Direi che è una spedizione particolare che ha perso per strada qualche medaglia sicura, diciamo così, anche se poi le Olimpiadi non ce n'è mai di scontate, però insomma l'infortunio di Tamberi ci ha privato di un asso sicuro tra i pochissimi che pure abbiamo nell'atletica, in particolare nel salto in alto. Il caso Schwarzer, con tutte le sue implicazioni, ci ha tolto un altro campione per quanto discusso, e poi anche il regolamento della scherma, che quest'anno esclude dal programma il fioretto femminile, il nostro dream team, e riduce quindi a solo 2 le nostre fiorettiste in pedana. L'hanno fatto per fare dispetto a noi? No, in realtà è un cerino che ogni Olimpiade ormai da qualche edizione rimane in mano a qualcuno, perché per ridurre, per esigenze televisive e organizzative, il programma di scherma, cosa del tutto opinabile, che personalmente per quanto poco possa contare non mi trovo assolutamente d'accordo, ad ogni edizione viene sacrificata una prova a squadre. In questo caso tocca a noi, però diciamo ci capita proprio nel mezzo della generazione più florida del nostro Dream Team, che seppur perde la Vezzali, che ha chiuso la carriera senza qualificarsi per Rio, ma insomma di fatto ha vinto tutto più volte, però ecco, chiaramente ci penalizza, perché ci toglie 2 medaglie sicure, insomma. Detto questo, occhio soprattutto alla piscina, perché c'è Federica Pellegrini, la nostra portabandiera, che cercherà un'altra medaglia olimpica sui 200 stile libero, e chissà, forse anche sui 100, vediamo come va, però insomma l'idea stuzzica super fede. Occhio anche a Gregorio Paltrinieri, che è il grande favorito dei 1500 metri, e occhio al 7 rosa della pallanuoto, e al 7 bello, e anche alle 2 nazionali di pallavolo, e poi aspettiamoci un po' di sorprese, o meglio anche qualche conferma dalle nazionali di tiro a volo, ad esempio, che sanno sempre far bene in queste occasioni. E poi sì, in effetti ci può essere la sorpresa dietro l'angolo, e subito il primo giorno di gara c'è Vincenzo Nibali che ha rifinito la preparazione proprio in vista di Rio de Janeiro, un percorso, quello della prova strada di ciclismo, particolarmente adatto agli scalatori e particolarmente adatto allo squalo di Messina. Io passerò i primi giorni delle mie vacanze in Svizzera, e la Svizzera è particolarmente addolorata perché non ci sarà Roger Federer. Il tennis è stato uno delle notizie della settimana. Sì, l'assenza di Sua Maestà Federer, chiaramente, quando alle Olimpiadi vengono meno i campioni, è veramente come se mancassero gli invitati principali a una grande festa dello sport, no? Per quanto molti campioni opachi nel loro passaporto biologico mancheranno per il fatto della Russia, come ben sappiamo, no? per le squalifiche. No? Però nel caso di Federer l'assenza conta doppio, perché è uno dei più grandi tennisti della storia e un campione a cui manca, come hai raccontato tu proprio nei nostri GR24. Mi hai sentito che ho preso un po' il tuo posto facendo questi pezzi sulle Olimpiadi? Mi sono divertita tanto, ho fatto i pezzi sulle Olimpiadi. Mai delega fu più calzante, perché sei perfetta anche in quel ruolo. Ho aspettato che tu andassi in vacanza per prendere il tuo posto, ma solo per qualche giorno nello sport. Brava, no, l'ho sentito con piacere. Però ecco, dicevamo, Roger Federer manca nel palmarès proprio l'oro individuale olimpico, l'ha sfiorato proprio nella sua Wimbledon a Londra, quando venne battuto da Murray, l'ha vinto in doppio, ma è anche significativo che un campione accetti che alcuni dei suoi sogni non si realizzino. È una scelta che Federer ha ponderato per poter allungare di un altro paio d'anni la carriera, e mi piace che in qualche modo si sia dimostrato non succube di alcuna ossessione. Sarebbe stato paradossale il contrario. È un insegnamento un po' in generale. Meno male che adesso si comincia a gareggiare, si parlerà forse un po' meno di doping, perché alla fine le notizie erano quasi tutte lì sulla Russia, con la spedizione decimata. Ed è andata ancora bene, forse? Ma guarda, il tema è sicuramente non esaurito con le decisioni prese magari in modo precipitoso sotto l'impulso del calendario dal CIO e dalle varie federazioni. Il rischio è, per paradosso, torniamo al palinsesto televisivo, è che quelle di Rio siano le prime Olimpiadi della storia che vedremo in differita, o meglio, di cui conosceremo i risultati in differita. Perché, come stiamo imparando a nostre spese, stiamo vedendo delle edizioni olimpiche, dei mondiali, dei vari sport, i cui effettivi risultati ormai diventano noti solamente a distanza di anni, una volta che le provette dell'antidoping vengono testate e ritestate. Allora la paura è quella di vedere oggi delle gare che ci emozioneranno, ci faranno piangere o sorridere, ma il cui risultato effettivo c'è il rischio che lo sapremo solo fra qualche anno. Speriamo che non sia così, ma certo il capitolo doping, Marta, mi sembra tutt'altro che esaurito con la soluzione, per forza di cose provvisoria, della querela russa. Ultima cosa, Dario, che cosa ti divertirà di più, che cosa ti incuriosisce di più, che cosa attendi maggiormente della tua esperienza olimpica? Non sto parlando di caipirinha, non sto parlando di specialità brasiliane, ma di discipline. Che cosa vedrai con più curiosità? Ma guarda, devo dirti che ti do una risposta in generale, perché chiaramente rischio di essere banale dicendo di 100 metri, però effettivamente quello proprio che a cui tu accennavi, cioè come il Brasile, come il Sud America in qualche modo accoglierà questi giochi, è la cosa che più mi incuriosisce, perché per quanto siano ormai un po' un pollo di plastica, nel senso che dove arrivano i giochi si sviluppano secondo una sorta di franchising che quasi può prescindere dal contesto, in realtà poi non è mai proprio così. E allora vedere comunque il Brasile con le sue difficoltà, con la sua crisi attuale, eccetera eccetera, ma che accoglie la torcia olimpica, credo che sarà comunque l'emozione più bella. E poi dal punto di vista sportivo, tutte quelle cose che non ti aspetti, tutti gli sport che capita di vedere o di cui capita di parlare poco, perché visti alle Olimpiadi rappresentano comunque la loro eccellenza. Per cui ti trovi a vedere degli sport, ma dal badminton, faccio l'esempio, al ping pong, alla loro eccellenza, e immediatamente lo capisci e immediatamente ne rimani affascinato. E questa è la cosa che è più bella delle Olimpiadi dal vivo, vedere questa eccellenza, perché quello è il meglio che il mondo dello sport può mettere in campo in quel momento. Dario, io spero che tu possa usare molto i social, perché mi piacerebbe avere dei tuoi dietro le quinte, così qualche foto, qualche tweet. Sono molto curiosa. Assolutamente, prometto di wifi e connessioni varie permettendo. Sì. Sai che io do questo suggerimento agli amici brasiliani per far contenti i giornalisti: mettete subito, fate funzionare il wifi, nessuno si accorgerà dei villaggi olimpici non finiti, perché oggi appena si entra in un posto si chiede: ma c'è il wifi, mi dai la password, per favore connettimi. Quindi amici brasiliani, trascurate samba e qualsiasi altra cosa, ma fate funzionare il wifi, vedrete che Verissimo. Le critiche si ridimensioneranno d'incanto. Allora, il tuo account di Twitter è @dricci73 e io ricordo che tutti i racconti di Dario Ricci saranno ovviamente nei giornali radio di Radio 24, ma poi ci sarà anche il, oltre ai tutti convocati normali, il tutti convocati alle Olimpiadi, che andrà in onda alle 18 tutti i giorni. Io vi seguirò con molta molta passione. Grazie e buon viaggio a Dario Ricci. Abrazos, abrazos. È già pronto, ciao Dario. Ciao, ciao, ciao. Il sabato del villaggio. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. Questa era Rise, Rise di Katy Perry, che è una canzone che Katy Perry ha scritto come inno per i giochi olimpici, appena pubblicato, un pezzo che a me piace molto, l'ho detto, quello brasiliano mi convince così così, ma ci abitueremo, siamo già un po' entrati in atmosfera olimpica col nostro Dario Ricci che accompagniamo virtualmente. Sono molto curiosa di vedere quello che ci manderà e di sentire quello che ci manderà da Rio il nostro Dario Ricci. Adesso però è il momento dell'ultimo appuntamento della stagione con un altro degli amici del sabato del villaggio, sicuramente il più gustoso. Buongiorno al nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Buongiorno, buongiorno. Allora Davide, cosa ci regali per l'ultimo appuntamento della stagione col nostro gastronauta? Qualche consiglio così di magari per chi è già in vacanza, per chi starà in vacanza, ma il primo consiglio che mi viene è questo: che quando tutti arrivano nei posti di mare, cos'è che cercano? Il pesce. C'è una follia collettiva: voglio mangiare pesce. Certo, il pesce in estate è il momento peggiore per mangiarlo, ma non voglio così demoralizzare tutti quelli che stanno andando al mare. Certo, ci sono le eccezioni, ci sono i posti in cui si mangia sicuramente pesce fresco, però attenzione, perché nei posti di mare, in questo periodo e di qui diciamo fino alla fine di agosto, c'è una crescita della domanda del pesce, perché tutti vogliono mangiare pesce, e in certi posti non arriva, quindi c'è il pesce congelato, il pesce surgelato. Ora, non è una tragedia, perché è molto meglio mangiare un pesce sicuro congelato o surgelato rispetto a un pesce che è molto ma molto incerto. Basta saperlo però, perché se ci illudiamo sia appena sceso dalla barca del pescatore. Certo, ma bisogna che ci sia onestà da parte dei ristoratori. Devo dire che sempre più si vedono quegli asterisco in fondo al menù, ma non allarmatevi, perché può essere anche un ottimo pesce senza grossi problemi. Però tu hai citato il pesce che arriva appena fresco dalla barca. Ecco, il pesce appena arriva fresco dalla barca, specialmente il pesce azzurro, deve essere abbattuto. Quindi è un'altra delle caratteristiche. Per legge, no? Per legge. Bisogna che chiederlo, specialmente il pesce azzurro. Il pesce azzurro, diciamo che l'anisakis si annida tra le carni del pesce azzurro soprattutto. Cos'è l'anisakis? L'anisakis è un vermetto veramente terribile che può causare dei danni al nostro intestino davvero molto molto profondi, se non addirittura arrivare a degli interventi chirurgici. Quindi non guastatevi all'estate, mangiate piuttosto un pesce abbattuto, che abbattuto non vuol dire congelato, perché l'abbattimento con gli abbattitori di oggi è velocissimo, a meno 24, e non è che crea dei grossi problemi, diciamo, ai tessuti connettivi del pesce. Un ultimo aspetto molto importante: da pochi giorni in tutto l'Adriatico è iniziato il fermo. Fermo cosa significa? Che non si può pescare. Non si può pescare perché il pesce si deve riprodurre. Diciamo che negli anni passati ci sono state delle esagerazioni, di conseguenza diciamo molti mari hanno dei pesci che ormai cominciavano a mancare. Per fortuna il fermo, non tanto in Adriatico ma in altre parti, ha riportato a far rivivere il tonno. Mentre il tonno era un pesce che veramente stava sparendo dai mari del Mediterraneo, con questa tecnica del fermo pesce ha ricominciato, diciamo, a ricostruire un po' la propria specie. Dicevo dell'Adriatico. L'Adriatico c'è il fermo, quindi molta gente che va nell'Adriatico tenga conto di questo, che quando andrà a mangiare tutto il pesce azzurro non lo troverà, per quello che io ho fatto la premessa iniziale. E quindi ecco, questo è un aspetto che diciamo molto importante, perché come dicevo, sì, si va anche molto in montagna d'estate, però più che altro si va al mare e la gente ci piace. Io non vado al mare, però di solito piace andare al mare. E vuoi mangiare pesce quando vai al mare? Quando vado al mare sì. Io sono più appassionata del mare in altre stagioni, però se vado al mare d'estate sicuramente sì. Ecco, per ora andrò al lago. Andrò al lago. Ah beh, c'è la famosa canzone della Domenica Bestiale, però c'è anche Mare d'Inverno di Loredana Bertè, che è un pezzo le rispetto entrambe. Ecco, io voglio dare anche altri consigli, e questo è altrettanto importante. Molta gente che va al mare e ordina pesce e magari ha, come posso dire, un momento di titubanza nel volere del vino che non è proprio congeniale secondo il luogo comune con il pesce. Io ritorno un po' al discorso del punto G e della libertà della gente di chiedere quello che vuole. Davide, senti, rispieghiamo cos'è il punto G prima che qualcuno tappi le orecchie ai bambini, che invece niente di vietato. Posso dire il punto G e posso raccontare anche lo scambio delle coppie, ma prima perché è sì, perché è una cosa estiva. Il punto G è quel punto del gusto, G sta come gastronauta, come gusto, in cui ognuno di noi, indipendentemente da quello che dettano le bibbie del mangiar bene o dei critici o d'altro, faccio un esempio, quello più chiaro che abbiamo fatto tante volte, pesce e vino bianco e l'aritmetica del gusto, uno dice io voglio bere vino rosso perché provando e riprovando ho provato che il mio gusto si abbina a quello, ho trovato finalmente il punto di gusto molto mio particolare che coincide col punto G. E questo è il punto G, ma questo può succedere anche con la carne e con un vino particolare, può succedere mangiare, che ne so, il melone con il tonno oppure il cocomero con il tonno, come ti ho scandalizzato. Non l'ho ancora provato, ti confesso che non ho ancora provato cocomero e tonno, ma ti ho promesso che lo faccio, quindi lo farò. Ecco, a proposito di cocomero di anguria, un caro amico siciliano che aveva ascoltato la trasmissione sull'anguria mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, ho sentito che hai parlato dell'anguria e io ti do, che poi in siciliano si chiama in un'altra maniera, perché lui anche in calabrese mi ha detto vari modi che io non avevo mai sentito. Lui dice: prendete una siringone, metteteci dentro dell'anice, e dell'anice molto particolare, siringate il melone, mettetelo in ghiacciaia e vedrete che viene fuori un gusto straordinario, delicatissimo. Bello, ecco, mi piace l'idea, proviamo. È da provare, io ancora non l'ho provata, però questa cosa qui mi gusta molto. Allora io, diciamo, rimando questa idea che mi ha dato questo amico, che tra l'altro è un bravissimo produttore di vino siciliano, mi ha immediatamente telefonato dopo aver sentito la trasmissione e mi ha dedicato questa ricetta. Però ti voglio dare anche qualche ricetta ai nostri amici che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato per lungo tempo. Ed estate il pomodoro. Il pomodoro è un po' un festival del pomodoro. Sono tante le ricette sul pomodoro. Allora io ne voglio dare una. Uovo affogato con pomodoro, con salsa di pomodoro. È una ricetta molto semplice. Molto semplice perché, appunto, il pomodoro oggi è fresco, in questo periodo è fresco. Tra l'altro ci sono tante varietà di pomodoro, dai datterini al San Marzano, dal San Marzano ad altre tutte peculiarità. Ecco, su questo voglio fare un inciso. Tutti noi pensiamo sempre che il pomodoro sia un fatto tutto italiano. Innanzitutto il pomodoro è un fatto che arriva, si dice, con Cristoforo Colombo e le tre caravelle, sicuramente arriva dal di là. Ma l'altra cosa, che il datterino che tutti mangiamo in questo periodo, diciamo che si trova in tutte le bancherelle dell'ortofrutta, non è una peculiarità italiana, perché il seme è arrivato da Israele. Quindi tutti si parla di datterino, pensiamo di mangiare una nostra specialità. Ora in Italia sicuramente l'abbiamo forse migliorato con i terreni di Pachino, perché il datterino nasce a Pachino, che è, parentesi ancora, una zona bellissima, Porto Palo, quella zona lì, vero. Fare le vacanze, bellissima, quindi vi consiglio di andare, magari di andare anche, vi do anche un altro indirizzo, andare a Noto, andare a mangiare alla gelateria, al Caffè Sicilia dei Fratelli Assenza, dove si mangiano sicuramente dei gelati e delle granite straordinarie. Già voglia di granita quest'ora, sì. Allora cari radioascoltatori, sì. Magari domattina, quando andate a fare colazione, pigliatevi la sola brioche o il solito croissant, ma invece di metterci il cappuccino, tagliatela e fattivi dare o un gelato o una granita. È una modalità siciliana, ma si può fare a Milano, si può fare a Torino, si può fare a Firenze, si può fare ovunque. È un modo diverso di iniziare la giornata e di iniziare anche un po' l'estate, così, con, diciamo, delle modalità, perché tutte le volte che si torna dalle vacanze si portano dietro sempre, dai posti dove si va in vacanza, che di solito non sono quelli dove si vive, si portano dietro delle passioni. Si è mangiato qualcosa di particolare e si porta a casa, poi magari per qualche settimana si continua a farlo e poi si smette, non so perché, ma è così. Si ritorna alle vecchie abitudini. Non preoccupatevi se tornate dalla Sicilia e vi siete portati dietro il pane Carasau o l'avete mangiato per una settimana. Dalla Sardegna. E poi vi sparisce, lo andate a comprare e non godete più come prima. Perché? Perché il luogo e la memoria è quello che fanno il gusto, non è il resto. Quindi quando sparisce il momento in cui sei mangiato, nel posto in cui sei mangiato, questo succede con tutte le specialità diciamo territoriali italiane. Quindi non è un problema vostro, è un problema di tutti, è un problema, l'incontrario della Madeleine. Verissimo, quindi, verissimo. Sì. Davide, siamo rimasti a metà però con la ricetta. La ricetta è l'uovo affogato. L'uovo affogato con salsa di pomodoro, specialmente si mette un uovo in acqua, prima si fa girare ovviamente l'acqua vorticosamente con una forchetta, si mette un po' di aceto, si spacca l'uovo, si mette dentro, pochissimo, meno di un minuto, si ritira fuori, si mette in un piatto, attorno si mette la salsa al pomodoro, e credo che sia uno dei mangiari più goduriosi dell'estate, così come il riso al pomodoro. Il riso al pomodoro ricorda quando si è bambini, ma in realtà è un piatto straordinario che, se fatto bene, è un piatto molto gustoso e magari mangiato alla sera con una brezza marina, secondo me è un bel bicchiere di vino, un bel bicchiere anche di bollicine, che d'estate volano le bollicine, non so perché, però fredde volano le bollicine, e quindi fatto in questa maniera. Oppure torniamo anche ad alcune, ma l'avevamo già dato l'altra settimana, di alcune bibite estive, per cui non ci torno sopra. Davide, volete... ci siamo io, Andrea e Roccabella, che ci siamo per un attimo guardati sognanti pensando alle bollicine, così, la serata d'estate, le bollicine. Davide, abbiamo mezzo minuto, cosa ci vuoi ancora suggerire? Stavi raccontando qualcosa? Sì, stavo raccontando che le bollicine d'estate si possono bere con tutto. Siate trasgressivi anche con la carne, ma bevete le bollicine magari in riva al mare. Arriva male quando c'è quella brezza, le bollicine sicuramente danno, secondo me, più felicità del vino fermo. Non lo so cosa sia, forse è un fatto psicologico che vengono conosciute come il vino della festa, ma è così. E poi mangiate tanto gelato, io sono ghiotto di gelato, sono ghiottissimo di gelato, anche qui fate molta attenzione perché ci sono gelaterie buone, gelaterie meno buone. Un consiglio, questo è l'ultimo, quando vedete nelle gelaterie quelle montagne che fanno di gelato, quelle montagne che rendono anche abbastanza ondulate, con i colori molto forti che colpiscono l'occhio e dicono vieni, vieni, non andate, perché è proprio il momento di non andare. Quello, diciamo, quando ci sono questi colori forti vuol dire che quel gelato non è al meglio. Soprattutto il pistacchio, ricordatevi che non è verde. Il pistacchio vero e buono è marroncino. Verissimo, io sono un'autorità in fatto di gelato al pistacchio. Da... Bene, ti piace salato? Ti piace quello tantissimo, salato? È l'estate del pistacchio salato. Sto mangiando allora, solo gelato, pistacchio salato e caramello salato, sì. Una ricetta, pistacchio, pepe e un goccio di gin. Fantastico, questa sera lo provo, pistacchio, pepe e un goccio di gin. Grazie a Davide Paolini, ci ritroviamo a settembre, grazie. Ciao, Davide, un abbraccio. Ciao, buona vacanza a tutti. Grazie, ci ha detto che dobbiamo essere trasgressivi, birichino questo Davide Paolini. Noi ci ritroviamo tra una manciata di minuti, una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme. Il sabato del villaggio. Sentiamo ormai in piena estate noi al sabato del villaggio, perché è l'ultimo sabato di diretta, poi vi lasceremo comunque in compagnia del meglio di RadioTube. RadioTube andrà in onda con i nostri incontri che ci sono piaciuti di più, che ci hanno divertito, che ci hanno interessato, che ci hanno emozionato di più. Li scoprirete un sabato dopo l'altro, poi vabbè, ci saranno delle altre novità, Radio 24 in agosto, ma ne parleremo più tardi, ne parleremo anche con un protagonista di una delle novità di Radio 24, lo faremo dopo il giornale radio delle 16. Adesso però è il momento delle tecnologie. E allora con Enrico Pagliarini cosa abbiamo pensato? Che di cosa non possiamo fare a meno quest'estate? Beh, ce lo dice lui, Enrico Pagliarini, da qualche parte c'è, me lo sento. Buongiorno, Enrico, ci sei? Beh, ciao, come se ciao, fosse ciao. Qui con me. Come esatto. Se fosse qui con me. Infatti, ma ve lo assicuro, qui, non di c'è. Fianco. Ah, ma sei tipo Pokémon che, non, sì, che sì. Ti devo perché trovare. Io sono un grande sostenitore della radio d'estate, ma della radio fatta d'estate, perché si sta meglio che fuori, c'è l'aria condizionata, c'è poca gente, è meravigliosa. Sabato e domenica ancora meglio. No, è vero, poi siamo tranquilli, sì, lavora. Sì. Tra l'altro, non so se hai sentito poco fa, Davide Paolini parlava di brioche col gelato. Noi sì. Domenica abbiamo mangiato ricordo. La brioche col gelato, sì, che ha, sì. Il gelato che ha portato Enrico Pagliarini da Modena in redazione domenica, sì. Lo devo dire, oh che buon gelato. Ma non divaghiamo, non parliamo di merenda a quest'ora, parliamo invece di tecnologia. Allora, le cose delle quali non possiamo fare a meno quest'estate, di cosa non possiamo fare a meno? Dunque, vediamo allora, cosa ho e cosa invece mi devo comprare. Allora, io ho fatto una lista di 100 cose, però abbiamo tempo per parlarne di 7, 8, una decina. No, ma anche modo. Perché 100... Sì, no, 100 sono troppe. Allora, la prima fuori classifica è lo scatolone oppure la cassa di legno. Cioè, tutto quello che noi utilizziamo durante l'anno di tecnologia a partire dallo smartphone, potremmo decidere di chiuderlo nello scatolone per una settimana, 15 giorni, un mese, dipende quanto sono lunghe le nostre vacanze, e non usarlo. Adesso vanno di moda addirittura le vacanze per disintossicarsi dalla tecnologia, e comunque senza utilizzare lo scatolone uno potrebbe effettivamente pensare di utilizzarle un po' meno. Ecco, questa potrebbe essere un'idea. Però fuori classifica, poi ognuno fa un po' come gli pare. Io faccio un po' fatica a stare senza smartphone, eh? Dunque, infatti, proprio per questo motivo, al primo posto, visto che d'estate ci si muove un po' di più e soprattutto si va in luoghi poco frequentati durante l'anno, che ne so, la montagna, i parchi, anche zone di mare non connesse con l'elettricità, ad esempio. Allora, secondo me la cosa più importante è dotarsi di una buona batteria esterna, la power bank. Sì. Cosa di cui abbiamo parlato mesi fa, poi non abbiamo più riparlato. Serve ricordo per che avevamo parlato sotto Natale perché era uno dei regali che si facevano. Perché, esatto. Sì. Costa abbastanza poco, quindi con 10-15 euro si compra già un buon prodotto. Aggiungendo qualche cosa in più, quindi non tantissimo, si comprano dei prodotti molto buoni. Allora, do solo un'indicazione, perché visto che abbiamo 10 cose da raccontare, dobbiamo andare un pochettino di corsa. Solo un'indicazione, voi controllate la capacità della batteria del vostro smartphone. Io quando devo fare un acquisto chiedo sempre a Enrico: che numerino devo controllare? Ecco, ci sono che un po' numerino di numeri dobbiamo controllare? Allora, la cosa più importante sono i milliampere, cioè la capacità proprio della batteria. Noi dobbiamo comprare una batteria esterna, un power bank che abbia almeno una capacità simile, se non più abbondante. Però attenzione, visto che molto spesso poi utilizziamo questa batteria esterna per ricaricare, che ne so, due smartphone oppure uno smartphone e un altro aggeggio, potremmo moltiplicare per due o tre. Quindi più grande è meglio, è un po' come il serbatoio dell'automobile, insomma, più grande è, più chilometri facciamo. Però quindi non almeno, bisogna fare come almeno la faccio io, come faccio io, scegliere una power bank di forma carina e di colore divertente, bisogna guardare anche che sia potente. Però esatto, insomma, facciamo un esempio: se io ho una batteria da 2000 o da 3000 mAh, tra 2000 e 3000 sono le batterie più comuni negli smartphone, facciamo fino a 3000, forse se ne compro uno da 3500 sto abbastanza tranquillo, cioè riesco a rifare una ricarica dello smartphone completa. Poi, se ce l'ho più piccola, vabbè... di sopravvivenza. Serve di sopravvivenza. Allora, collegato a questo ci sono caricatori a pannelli solari, quindi se siamo proprio messi male in una zona molto sfortunata, questa può essere una soluzione. E ci sono anche delle batterie supplementari con lo speaker integrato, quindi se poi noi vogliamo in spiaggia, senza disturbare i vicini di spiaggia, utilizzare questa batteria anche come speaker, cioè per far ascoltare la musica o qualsiasi altra cosa, che ne so, la radio, Radio 24, attraverso questa cosa collegata allo smartphone, possiamo farlo. Però occhio che consuma batteria, quindi poi non so se il gioco vale la candela, però è un consiglio. Numero due, a proposito di musica, molti smartphone hanno la cuffietta in dotazione, ma spesso sono cuffiette audio di scarsa qualità. Consiglio di comprare una cuffietta in-ear, cioè che vuol dire intraurali, si dice, cioè che si infila nell'orecchia. Isolano maggiormente dai rumori esterni e soprattutto sono più stabili sull'orecchio, visto che d'estate ci muoviamo di più, non necessariamente per correre, magari siamo in movimento anche passeggiando, possiamo ascoltare, che ne so, uno dei podcast di Radio 24 senza che ci si sfili la cuffia dalle orecchie. Se vogliamo essere ancora più comodi, possiamo comprare una cuffia Bluetooth, però attenzione che abbiamo un'altra cosa da caricare, quindi scarichi, consumiamo batteria. Sì, ma corriamo il rischio di rimanere senza cuffia a metà. Allora è comoda, fantastica, bella, cioè costa un po' di più, però voglio dire, usiamo il filo che è molto affidabile. Una 2bis sempre per quanto riguarda le cuffie. C'è, visto che qualche ascoltatore tempo fa forse l'aveva chiesto, comunque qualcuno mi aveva scritto, una società americana ha fatto delle cuffie che si chiamano Neptune, che più che cuffie sono degli aggeggi che si appoggiano allo zigomo e trasmettono musica tramite lo zigomo. Non e vanno bene per chi nuota, cioè sott'acqua funzionano, quindi può essere una idea. 140-150 euro, una roba del genere. Numero 3, una action camera. Se non siamo esperti della materia, vanno bene quasi tutte, insomma possiamo anche iniziare dagli entry level. Oggi siamo abituati a riprendere molte cose con lo smartphone, però in situazioni particolari, che ne so, sulla bicicletta o che ne so, su una canoa mentre ci muoviamo. Se noi piazziamo una action camera, dopo abbiamo cioè dei se vogliamo video fare belli. Davvero una action, anche perché quasi tutti sì, la sì. usano senza usano la cam ma non l'action, invece quelli che fanno l'action davvero. Numero 4 e numero 5 sono delle applicazioni. Allora, il numero 4 sono applicazioni per misurare le prestazioni sportive direttamente dallo smartphone, quindi senza braccialetti, orologi, cose del genere, capitolo a parte. Ne consiglio 4. Le più note sono Endomondo, Runtastic e Strava, che ci permettono di poi vedere che percorso abbiamo fatto, anche percorsi non necessariamente di corsa, anche se facciamo una passeggiata in montagna possiamo poi rivedere il nostro percorso. Presentata da poco per i ciclisti, un'app sviluppata da italiani, molto ben fatta, Sport Plus Health, SPH, può essere un'idea per chi va in bicicletta. Poi al numero 5, a proposito di applicazioni, ricordo molto molto molto utile l'applicazione del soccorso alpino italiano. Ah certo, ce l'avevi parlato una volta, sì. Decisamente importante. Esatto, GeoRescue, è scritto così, GeoRescue. Molto semplice da trovare, c'è sia per Android che per iOS, ma anche per Windows Phone. Quindi se uno va in montagna può essere utile. Al numero 6 ho messo cose da non fare, perché ci sono tante cose che si possono acquistare, certe cose che si possono fare, però ci sono anche delle cose che non si dovrebbero fare. Ce ne sono un po', io ne ho selezionata una: parlare delle vacanze sui social network. Ah, ok. Perché? Se non siamo stati bravi a selezionare le impostazioni di privacy, quindi abbiamo effettivamente blindato quello che noi scriviamo sui social network, tipicamente su Facebook, nella cerchia dei nostri amici, e sono molte le persone che non hanno ancora capito e scrivono cose le più strane e poi appaiono nei profili pubblici e tutti le possono andare a vedere. Se io scrivo tutto quello che farò in vacanza, ma soprattutto quando vado in vacanza, con dovizia di particolari, se uno incrocia due o tre dati, non è che ci vuole tanto, e sa quando io vado in vacanza, dice perfetto, quella casa lì dal 2 di agosto al 16 di agosto è libera, e quindi cose da non fare. Allora, al numero 7, qua apriamo però un capitolo che dura un qualche minuto. Allora, cosa facciamo? Noi abbiamo un minuto prima della viabilità. Via. Allora, diamo prima la viabilità e poi io guardo Andrea in regia, va bene, diamo prima la viabilità e poi facciamo il discorso sul roaming, perché poi interessa molto anche a me, vi confesso che sono stata anch'io a chiedere a Pagliarini di interessarsi un po' perché ho anch'io qualche curiosità, quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo su strade e autostrade, particolarmente importante oggi perché tante persone sono in viaggio, e ci ritroviamo tra poco. Il sabato del villaggio. Tutti i tormentoni dell'estate che ci stanno un po' accompagnando, questa, vabbè, noi tra l'altro abbiamo incontrato Alvaro Soler proprio due giorni dopo l'uscita di Sofia, dicendo questa sarà un tormentone, era una scommessa molto facile, mi autodenuncio, era una scommessa davvero molto molto facile. Enrico, allora, hai detto roaming, allora sì, tra l'altro ecco chi è Alvaro Soler, perché ieri qualcuno mi ha citato questo nome e dice ma chi è sto Alvaro Soler? Ma chiedi a zia Marta che ti spiega tutto sì, di queste sì, cose, infatti, ecco. Vedi, allora, chi va in vacanza all'estero? In tanti, che si fa? Dunque, allora, è un grosso problema, è un argomento molto molto spinoso. Allora, sapete che da questo maggio c'è stato un ulteriore taglio delle tariffe roaming, si paga effettivamente poco ogni minuto, e dal prossimo luglio, dal prossimo anno, giugno-luglio diciamo, verranno tagliate definitivamente le tariffe roaming. In realtà non scompariranno totalmente, ci saranno dei limiti per un uso equo, comunque diciamo che l'Unione Europea raggiunge un buon risultato, però in questo anno, taglio totale, ma no. Beh, però sarà, è un problema, poi un giorno se volete ne parliamo, perché è un problema tagliare completamente per le differenze che ci sono di prezzi nella telefonia mobile tra l'Europa, insomma all'interno dell'Europa. Comunque pensiamo a questo anno, che cosa possiamo fare? Allora, possiamo o continuare a fidarci al nostro operatore, però gli operatori che purtroppo continuano a dare una cattivissima immagine di sé, tutti gli operatori devo dire, non ne salverei nessuno, che cosa hanno fatto? Hanno detto quando vai all'estero, alcuni lo fanno in maniera automatica, altri non in maniera automatica, ci sono naturalmente i più bravi e i meno, oppure i più cattivi e i meno cattivi, diciamo così. Mm-hmm. Dicono, quando vai all'estero automaticamente, se tu fai una telefonata o ricevi una telefonata o fai traffico internet, ti facciamo scattare un piccolo forfait o dati o voce, tale per cui tu paghi una cifra abbastanza contenuta, stiamo parlando di pochi euro o al giorno oppure pochi euro alla settimana, dipende dai profili, e qua se parliamo di profili ce ne sono veramente decine, certo, decine, è un arcipelago incredibile. In questo modo tu hai un monte dati, un monte voce che puoi utilizzare all'estero. Benissimo, se uno utilizza tutto questo monte, effettivamente il piano è, la proposta degli operatori è conveniente. Peccato che se io faccio una telefonata, invece di pagare la tariffa roaming, mi scatta questo piccolo forfait e pago magari una telefonata 3, 5 euro, 8 Infatti, euro, di 10 solito, euro. Appunto, classicamente sono 3 euro al giorno, 5 euro al giorno, lo devo sfruttare, perché se faccio una telefonata sola mi costa 5 euro. Esattamente, quindi la prima cosa da fare è controllare che il nostro operatore, per il nostro profilo tariffario, preveda che quando siamo all'estero noi possiamo avere la tariffazione a consumo, tale per cui il consumo è quello determinato dalle tariffe dell'Unione Europea. A meno che sappiamo che noi utilizziamo tutto questo monte dati che scatta a fronte di questo, di questa opzione che hanno messo quasi tutti gli operatori, e quindi siamo contenti così. Oppure sottoscriviamo un piano ad hoc. Ci sono gli operatori che hanno piani ad hoc per l'estero, e qui poi dipende da dove andiamo, perché non tutti vanno all'interno dell'Unione Europea. Quindi io per prima sto per andare in Svizzera, quindi che è qui dietro l'angolo, però è un altro pianeta, esattamente. Sì. Allora, ci sono altre opzioni. Acquistare una SIM locale. Non in tutti i paesi è facile acquistare una SIM locale, però devo dire che è sempre più facile acquistare una SIM locale, e spesso, non sempre, è conveniente. Il problema è che però abbiamo un altro numero di telefono. Quando riceviamo le telefonate o comunichiamo quel numero, che però poi costa di più a chi ci chiama, oppure diventa un po' complicato. Quindi non è sempre una soluzione ottimale. Un'altra soluzione, sempre acquistando una SIM locale, è acquistare una SIM locale assieme a un modem Wi-Fi, un modem dati, tale per cui noi utilizziamo magari solo i social network, oppure semplicemente una SIM dati. Ci sono SIM dati internazionali o SIM che possono che ci permettono di fare solo traffico chat. C'è una società italiana che ha lanciato Chat SIM, però devo dire che ci sono molti limiti. Allora, anche qui, se uno rimane nei limiti prestabiliti dalle condizioni, vive felice, però i limiti non sono pochi, e quindi uno deve stare molto attento, perché poi se sfora i limiti o si blocca oppure devi pagare di più. Quindi è effettivamente un esercizio molto molto complicato. Ovviamente la cosa forse più facile è rimanere con il nostro operatore e sfruttare i pacchetti che ci vengono messi a disposizione. Certo. Devo dire che però gli operatori non se lo meritano, e quindi cerchiamo magari all'estero di telefonare anche un po' meno, cercare il classico wifi e sfruttare la rete wifi quando possiamo. Tutti gran messaggi sui servizi, esatto, di messaggistica, ognuno quello che preferisce col wifi alla fine. Sì, sì, devo dire che purtroppo anche in questo caso gli operatori non si sono comportati, capisco che c'è una competizione sui prezzi, capisco che è complicato anche il loro mestiere, però sono proprio campioni nel poi ecco, potremmo aprire un capitolo sulle authority, perché le authority forse potrebbero essere anche un po' più severe. Parlo di Agicom e anche quella sulla concorrenza, però Non ne parliamo qui. Dunque, questo è il punto numero 7, numero 8, numero 9 e numero 10 in un paio di minuti. Allora, molto importante al numero 8 fare il backup, cioè il salvataggio dei propri dati. Questo è importante tutto l'anno, però se noi andiamo in vacanza e o perdiamo il telefono o ci si rompe il telefono o ci rubano il telefono e le nostre fotografie che abbiamo fatto col telefono o che ne so, con l'action camera, rimangono lì e poi noi quando torniamo non ce l'abbiamo più il telefono, perdiamo anche le fotografie, esatto. E quindi se noi prevediamo una modalità di backup online, magari facciamo le foto del giorno, alla sera sincronizziamo questo backup e salviamo le fotografie, e quando torniamo ci abbiamo tutte le nostre fotografie. Non facciamo 80.000 foto, perché tanto poi non abbiamo tempo per vederle, ci occupano spazio. Vabbè. Dunque, 9, potevo metterla come 1 bis, cioè al posto della batteria esterna per ricaricare, però non è solo un problema di batteria scarica. Allora, prendere un telefonino vecchio tipo, un vecchio telefonino, come muletto, per mille motivi, sia per questione di batteria, ma anche perché magari è più comodo, è più sottile, molto più, se ci cade non si rompe, certo, o comunque certo. Se si rompe magari ci è costato 10 euro e ce ne freghiamo. Abbiamo pochissimi secondi. Compratevi una radio DAB. Fantastico. E ascoltateci dovunque siate. Grazie, esatto. Enrico. Grazie mille, Enrico Pagliarini. Ciao a voi, a presto. Buone vacanze. Grazie, Enrico Pagliarini. Noi adesso parliamo di cinema perché è stato presentato il cartellone della prossima mostra di Venezia e ci ha raccontato tutto il direttore Alberto Barbera. Diciamo che l'ambizione principale di un direttore è quella di sorprendere, no? di non proporre cose scontate, i soliti the usual suspects, come si dice, ma di andare un po' alla ricerca di quello che sono invece i frutti più rari, più curiosi, più interessanti, più stimolanti. Una mostra dovrebbe servire anche questo, no? E quest'anno ci siamo riusciti forse più del solito, aiutati dal fatto che è una stagione sicuramente positiva, con tantissimi film di buona qualità, più del solito, e quindi anzi paradossalmente abbiamo avuto il problema opposto degli anni passati, cioè abbiamo dovuto scartare dei film che avremmo preso in altre condizioni, in altri momenti, proprio perché le proposte erano tante. E il risultato è una mostra sorprendente, che era l'obiettivo che avevamo, ricchissima, con una varietà davvero, davvero notevole. Si va dai grandi film hollywoodiani prodotti dalle majors fino alle esperienze di cinema più radicale, non so, la Diaz all'opposto, in mezzo tutto quel cinema d'autore che conta, che esiste ancora tra mille difficoltà di sopravvivenza e di finanziamento, ma che c'è, che è vitale, che è vivace, che continua a innovare, continua ad alimentare la linfa del cinema contemporaneo. Che cosa ci dice questa Venezia 73 dello stato del cinema italiano? Ma quest'anno abbiamo visto più di 120 film, tantissimi, segno di una tendenza purtroppo insomma non positiva, cioè si punta più sulla quantità che non sulla qualità dei film, che insomma una qualità che è mediamente piuttosto che lascia un po' a desiderare, diciamo così. Abbiamo scelto dei film, ne abbiamo scelti tanti, ce ne sono 3 in concorso, altri fuori concorso, altri in orizzonti, eccetera. Abbiamo scelto quelli che ci sembrano più nuovi, più capaci di dare segnali di novità, insomma. Un film di 2 filmmaker milanesi che si chiama Spira Mirabilis, che definire documentario è assolutamente riduttivo, perché è un film con un grande impianto concettuale, visivamente stupendo, che oltre a raccontare 3 storie in 3 parti diverse del mondo, il Giappone, un'isola del Giappone, una riserva di indiani Navajos negli Stati Uniti e la fabbrica del Duomo a Milano, aspira a una grande riflessione sul senso della vita, sull'aspirazione all'immortalità, sulla necessità di misurarsi con la caducità delle cose. Insomma, è un grande film, un grande documentario di ricerca, come ne esistono tanti in giro per il mondo e pochissimi in Italia. E poi c'è il ritorno di Giuseppe Piccioni dopo tanti anni in concorso a Venezia, con il suo film più maturo, più formalmente più elaborato, più che è un romanzo di formazione, la storia di 4 giovani ragazze che partono per un viaggio che in realtà trovano se stesse alla fine di questo percorso di formazione. E poi una commedia, si accusa il festival di non prestare attenzione alle commedie, quest'anno c'è una in competizione, il secondo film di Ronald Johnson si chiama Piuma, è una commedia deliziosa, ben scritta, ben recitata da attori non sconosciuti, con dialoghi brillanti, girata benissimo, cioè un film nello stesso tempo leggero e intelligente, qualità che purtroppo mancano alla maggior parte delle commedie che arrivano nelle sale cinematografiche oggi. E quindi queste tutte le novità di Venezia 73, che sarà poi il primo appuntamento della fine estate, con i primi giorni di settembre che ci danno già un po' di brividi dell'autunno, ma adesso sta per cominciare agosto, quindi per noi sarà un mese di vacanze, per il Sabato del Villaggio che si ferma, ma Radio 24 non si ferma, ci saranno tantissime novità, noi le scopriremo insieme dopo il giornale radio delle 16, perché avremo uno dei nuovi protagonisti del palinsesto di Radio 24, lo scopriremo tra poco. Adesso linea a Narita D'Ambrosio e al GR24, poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio, anche per la seconda ora in diretta di quest'ultimo sabato in diretta, che è il 30 luglio. Il villaggio è sempre il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E non dimenticatevi, la terza ora dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Dovevo prendermi la papera nell'ultima puntata. Per contattarci sempre il numero per gli SMS e per i WhatsApp 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter, @ Marta Cagnola. Ora scopriamo i temi della seconda ora che passeremo insieme. Allora, i libri da mettere in valigia con la nostra Alessandra Tedesco, come di consueto. Poi torna al Sabato del Villaggio il nostro Manuel Giancale per parlarci di eventi estivi, tutti gli appuntamenti da non perdere in questi giorni. E poi ci lasceremo andare a uno dei passatempi estivi più lievi, più divertenti, più innocenti, ma a volte anche no, il gossip. Ma prima scopriamo tutte le novità che riguardano la programmazione estiva di Radio 24. A Filippo, ci siamo, tra pochissimo inizia la nostra prima puntata su Radio 24, i fuori posto, ma di che parliamo? Innanzitutto del pane della camorra. Cioè? Cioè di quel pane che viene prodotto illegalmente e venduto per le strade di Napoli. Poi parleremo, forse caso unico in Italia, stavo per dire unico al mondo, ma forse almeno unico in Italia, di un ragazzo che è convinto di aver ricevuto una macumba, cioè un incantesimo voodoo, da parte della sua ex ragazza. E noi dei fuori posto, in esclusiva, metteremo in contatto il ragazzo con la ragazza. E poi, caro Umberto, sai che avremo la reincarnazione di Freddie Mercury, che mi pare ha avuto anche qualche problemino con le tasse. E infatti poi ci racconterà. Vabbè, vi aspettiamo puntuali alle 10 in punto su Radio 24. Filippo Roma e Umberto Alenzio, i fuori posto. E questa è una delle novità del palinsesto estivo di Radio 24. Abbiamo deciso di raccontarvi un pochino di quello che succederà ad agosto, perché agosto è anche il momento per ascoltare, sperimentare, scoprire nuove trasmissioni. E io sono molto contenta di poter parlare in anteprima di una trasmissione che si intitola I fuori posto, tutto quello che è fuori dall'ordinario. Sicuramente avete sentito qualche promo che va in onda su Radio 24, ma vogliamo sapere tutto di quello che accadrà da lunedì al venerdì alle 10 da lunedì prossimo da Filippo Roma. Ciao Filippo. Ciao, buongiorno. Sei contenta e devi essere anche ritenerti molto fortunata e onorata, perché Per parlare con il protagonista insieme a Umberto Alenzio del programma che sconvolgerà la radiofonia nazionale. Guarda che già Radio 24 l'asticella ce l'ha abbastanza alta, vedi tu, vedete voi cosa potete fare tu e Umberto. Speriamo bene, speriamo che non ci caccino via prima del tempo, più che altro. Allora, perché sconvolgerà la radiofonia? Cosa ci volete? Mi sembra già una minaccia, che cosa ci volete combinare? Ma no, niente di che. Noi vogliamo raccontare le storie di tutti coloro che si sentono fuori posto, perché partiamo dal fatto che tutto ciò che è a posto è noioso, le persone a cui va tutto bene sono pesanti alla fine, e siccome sia io che Umberto siamo due disadattati fondamentalmente, ci piace raccontare le storie di quelli come noi o di quelli che hanno esagerato, perché in questo programma noi avremo a che fare anche con gente che è andata ben oltre il proprio posto, perché racconteremo storie di truffatori, di persone che hanno avuto esperienze molto difficili nella vita, di camorra, di pane della camorra. Parleremo del mondo dei centurioni romani, quelli che si fanno le foto sotto il Colosseo, quindi veramente personaggi fuori posto. Quindi anche andate a indagare quello che accade al limite dell'illegalità, insomma, sì. Immagino che le storie possano essere anche abbastanza forti. So anche però che ci sono delle storie piuttosto divertenti, mi hanno raccontato. Sì, noi mescoleremo un po' alto e basso, cioè inchieste e cazzeggio. Per esempio avremo, ve lo dico in anteprima, un grande esperto di economia che tratterà i temi economici nello spazio Fuori Economia, ed è un cantante neomelodico napoletano. Ah, non pensavo Sebastiano Barisoni, no, Sebastiano non canta, che io sappia. No, non risulta neanche a me, però questo è un vero cantante neomelodico. Filippo, tu vieni dalle Iene, anche Umberto lavora dietro le quinte. Sì. Che cosa porti? Umberto è uno degli autori delle Iene e autore di molti miei servizi. Ecco, che cosa porti della tua esperienza con le Iene ai fuori posto? Porto la strada, perché è per strada che tu incontri le storie delle persone fuori posto. Allora Filippo, l'appuntamento è da lunedì a venerdì alle 10. Hai promesso che sconvolgerete la radiofonia, ci scandalizzerete anche. Guarda che Radio 24 non siamo proprio facili a scandalizzarci, siamo abbastanza pronti. Questo lo so, però ascoltateci, perché ci saranno argomenti che potrebbero scandalizzare anche parecchio. Incredibile. Allora, grazie a Filippo Roma, grazie anche a Umberto Alezio, che è dietro le quinte ma sarà davanti a te al microfono da lunedì a venerdì alle 10 i Fuori Posto su Radio 24. Grazie Filippo. Ciao a te, grazie a te, grazie a tutti. E questo è uno degli appuntamenti di Radio 24 nel mese di agosto, ma adesso vi do ancora un po', faccio un po' la signorina buonasera, anzi la signorina buongiorno, e vi racconto un po' di novità. Intanto questa è la sigla di Voci in Scena, che sono un po' le interviste, io dico le grandi interviste perché le ho fatte io, che vi terranno compagnia per tutto il mese di agosto. Allora, alle 13.30 e poi in replica la mattina dopo molto presto, alle 6 e qualcosa, insomma, però alle 13.30 è il primo appuntamento. Allora, ho qui davanti a me, anzi dopo ve lo posto anche perché ho fatto tutto uno schema molto carino, molto colorato. I protagonisti saranno, mi si è spento il telefonino, no, Fabrizio Gifuni, Mauro Pagani, Stadio, Giuliano Palma, gli After Hours, Walter Fontana, Finley, Clementino, Mimmo Locasciulli, Nesli, Gerry Calà, Paolo Simoni, Antonella Lococo, Vinicio Capossela, Niccolò Fabi, Diego Mancino, Andrea Mirò, Zucchero, Piccola Bottega, Baltasare Perturbazione, e sono solo i primi perché vi terremo compagnia anche fino a settembre. Poi il sabato pomeriggio non c'è il sabato del villaggio, perché ve l'ho detto, con oggi andiamo un po' in vacanza, perlomeno per quanto riguarda la diretta. Avremo comunque il meglio di RadioTube tutti i sabati alla solita ora, all'ora abituale di RadioTube, con un po' di grandi incontri di ospiti che ci sono particolarmente piaciuti in questi mesi a RadioTube. Ma le novità del palinsesto estivo di Radio 24 sono tante. Si parte al mattino, allora, come sempre, rassegna stampa, GR, ma la mattina sono molto contenta. Qualcuno dice il mattino si tinge di rosa, io divento matta, odio l'espressione rosa in rosa, io non mi sono mai vestita di rosa, sono una femmina ma non mi vesto di rosa, ma cosa vuol dire rosa? Niente, ci sono due signore dell'informazione, sono molto contenta. La mattina verrà condotta da Elisabetta Fiorito e Deborah Rosciani. Deborah Rosciani la conoscete perché è una delle due straordinarie voci di Cuore e Denari, di solito in tarda mattinata, invece loro conducono Ma cos'è quest'estate dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10. Invece Elisabetta Fiorito è una nostra giornalista, la nostra bravissima giornalista politica di Roma, della redazione romana di Radio 24, ma come sapete anche grande esperta di teatro ed è stata nostra ospite anche più volte per parlare di teatro. I Fuori Posto, ne abbiamo parlato la mattina, tutti convocati c'è, ma ci sarà anche, e lo abbiamo citato con Dario Ricci, tutti convocati alle Olimpiadi. Pleiadi alle 18, appunto con le corrispondenze di Dario Ricci ma anche i commenti dell'esperto Leo Turrini. Altro appuntamento estivo di Radio 24, sono molto contenta del ritorno tutti i giorni alle 16 di Giampaolo Musumeci, che come sapete tutto l'anno gira il mondo, ma non nei luoghi in cui vanno i turisti o nei quali si sta sicuri. Lui è un grande reporter nei luoghi della cronaca, dell'attualità internazionale, in Iran alla scoperta del cinema, in Africa per il traffico dell'avorio, il terrorismo, l'Indonesia, il Congo e anche Bruxelles, insomma i viaggi di Giampaolo Musumeci, i racconti di Giampaolo Musumeci ogni giorno dalle 16 su Radio 24. E poi abbiamo appena sentito nel giornale radio di Radio 24, e l'ascolteremo per ogni edizione fino a questa sera, Anna Rita D'Ambrosio. Ebbene, Anna Rita D'Ambrosio ritorna con Valeria De Rosa come la scorsa estate per Globetrotter 24, quindi Globetrotter 24, edizione rinnovata della nostra trasmissione che parla di viaggi. Non solo, però c'è un'ultima novità: la domenica dedicata ai bambini e alle Olimpiadi con Federico Taddia e Telmo Pievani, che alle 9 conducono Terra in vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, e risponderanno a tutte le domande dei più piccoli e, perché no, anche dei più grandi. Quindi insomma vi ho elencato un po' di novità del palinsesto estivo di Radio 24 da lunedì. Secondo me molte sono molto gustose. Io appunto vi terrò compagnia sempre alle 13.30 con le interviste di Voci in Scena, e il sabato col meglio di RadioTube. Quindi non vi lascio da soli, non so se è una promessa o una minaccia. Comunque adesso abbiamo una brevissima pausa, molto molto importanti, ve l'ho detto, le indicazioni per chi viaggia questo pomeriggio, perché di traffico ce n'è tanto e di persone che si stanno spostando ce ne sono tante. Quindi appuntamento con la viabilità e poi ci ritroveremo tra poco per parlare di libri. Il sabato del villaggio. E come vi dicevo poco fa, il sabato del villaggio, come sempre a quest'ora, è il momento di parlare di libri. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Ma come siamo romantici questa settimana, come siamo romantiche, anzi, io e Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! E sai, è l'ultima puntata, allora ho pensato di portarti qualcosa di romantico. Un'estate d'amore, allora. Un'estate d'amore, quelle cose che superano le barriere, il coraggio. Basta, sto dicendo un po' di cretinate. Allora, nei libri dell'estate, per chiudere le valigie con gli ultimi libri, che sono poi quelli di cui si parla forse di più, c'è subito un libro romantico? Sì, diciamo che ti ho portato un po' i libri di cui si sta parlando in questo momento, in questa estate 2016. Allora, quella che sentite è la colonna sonora di un film, tra l'altro, Marta, quindi poi cederò la parola a te, tratto dal libro Io prima di te, di Yo-Yo Moyes, spero di pronunciarla bene, che è una scrittrice inglese. È uscito in Italia da poco anche Dopo di te, che è il sequel, sempre per Mondadori. Allora, si sta parlando molto di questi due libri, forse perché appunto è in arrivo il film, ed è una storia romantica ma nello stesso tempo anche comunque dolorosa, piena di coraggio. La protagonista è Luisa, detta Lu, ha 26 anni, fa la cameriera, ha un fidanzato, vabbè, che la trascura perché insomma va sempre in palestra, è concentrato sui suoi allenamenti, eccetera eccetera. Purtroppo il locale dove lei lavora viene chiuso, insomma perde il lavoro, trova un impiego presso una famiglia, deve prendersi cura di Will, che è un giovane disabile, è costretto sulla sedia a rotelle. Questo è un incontro destinato a cambiare la vita di Lu. All'inizio lui, vabbè, naturalmente arrogante, aggressivo, sai, ti ricordi anche un po' il film Quasi amici? Anche quello era stato tratto da un libro. Beh, un classico, però, che il protagonista sia un po' così, Beh, un classicone, eccetera. Sì. Poi insomma si instaura una tenera relazione, e questo è Io prima di te. Dopo di te, che invece è il sequel, la trama non ve la posso dire perché dovrei svelarvi perché se non avete la letto fine il primo. Esattamente. Diciamo che quello che succede dopo questa storia fra Lu e Will. Quindi prima leggete il prima, poi leggete il dopo. Sì, consigliato a uomini e donne che vogliono commuoversi un po' quest'estate. Va bene, tra l'altro il film uscirà a settembre, quindi leggo che i protagonisti sono due attori molto molto amati come Emilia Clarke e Sam Claflin, insomma roba romantica che piace. Allora, per i romanticoni mettiamo questo in valigia, il primo e il secondo. Altri consigli Alessandra? Allora, ci sono sempre gli appassionati di gialli e questa volta ho scelto un giallo storico di cui si sta parlando molto in questo periodo. Si intitola L'Abbazia dei Cento Inganni, scritto dall'italiano Marcello Simoni, pubblicato da Newton & Compton. È un thriller storico. Ricordiamo, Simoni era diventato famoso con il romanzo Il mercante di libri maledetti nel 2011. Poi ha scritto un paio di trilogie e questo L'Abbazia dei Cento Inganni è il terzo volume, quello che chiude la trilogia dell'Abbazia di Pomposa. Allora, ambientazione. Siamo okay. Nel 1300. Ma quindi. Che bello, così facciamo anche ripasso di storia. Sì. Esattamente, Medioevo, secolo del Gotico a Ferrara. Protagonista è il cavaliere Maynard de Roche-Blanche. Io mi lancerei con un Maynard de Roche-Blanche. E tu conosci il francese, io no purtroppo. Insomma, lui con l'appoggio, diciamo, della Santa Inquisizione deve indagare su uno strano fenomeno. Cioè nei boschi, diciamo, circostanti alla città di Ferrara spesso sfila una processione di persone incappucciate che di fatto terrorizzano chiunque si trovi sulla loro strada. E quindi Simoni l'ha scritto il romanzo, deve scoprire che cosa si cela dietro questa strana processione. Io ti dico che da Vanity Fair Italia Marcello Simoni è stato paragonato addirittura a Umberto Eco del Nome della Rosa. Accidenti. Mi sembra un po' tantino. Accidenti. Bravo Marcello Simoni, ma mi sembra un po' troppo. Oppure altre critiche, così te le leggo volando. Vittorio Sgarbi ha detto: non ti fa sentire il peso di una storia di 700 anni fa, ma la rende attuale. Il presente storico è la cifra estetica più originale di Simoni. Beh, devo dire che a questo punto viene anche un po' di voglia per gli appassionati assolutamente sì, del genere di esplorare. Diciamo che è un po' un Dan Brown in salsa italiana. Bene, bene, bene. Appassionati dunque di thriller. Sì. Altri thriller da citare? Ora, questo è un periodo strano l'estate in cui, sappiamo, i gialli e i thriller vanno tantissimo, ma ho creato anche stavolta la categoria A volte tornano. Perché stanno tornando nelle classifiche, quindi vuol dire che sono libri di cui si sta parlando, che la gente sta comprando, che la gente sta leggendo a casa o sulle spiagge, eccetera, eccetera. Due thriller del passato. La ragazza del treno, che era stato il tormentone, esattamente, ma anche e soprattutto, e qui sono rimasta un po' stupita, quello che era stato il caso dell'estate 2014, ossia la verità sul caso di Eric Ebert, di Joel Dicker, uno scrittore svizzero, che ormai possiamo dire è diventato un long seller più che un best seller. Lo ricordiamo brevemente la trama, insomma. C'è prima l'ambientazione nel 75, Nola, una ragazzina di 15 anni, scompare. Poi si fa un salto temporale, siamo nel 2008 a New York. Marcus Goldman è uno scrittore, insomma, di successo, però ha il classico, sai, blocco della pagina bianca, insomma, non sa cosa scrivere, eccetera, eccetera, ma questo blocco viene, diciamo, sbloccato dal fatto che il suo amico e professore universitario, appunto Eric Ebert, che dà il titolo al romanzo, che è uno scrittore molto amato negli Stati Uniti, viene accusato di aver ucciso appunto la giovane Nola, la ragazzina che era scomparsa nel 75. Ai ai. E quindi non vi posso spiegare tutto, perché se no se vi spiego tutto poi il giallo non ha gusto. Anzi, questo è proprio un thriller, direi. Bene, bene, bene. Quindi gli appassionati del genere li abbiamo sistemati, però so che tu hai anche un tuo consiglio personale. Me l'hai detto con un sorriso, non lo so. Allora, a parte, diciamo, i libri di cui si parla in questo periodo, va bene, ne stiamo parlando giustamente anche noi al Sabato del Villaggio, c'è un libro che ho trovato un po' di tempo fa in libreria che mi ha fatto veramente divertire da morire. L'ha scritto uno psichiatra portoghese che si chiama José Luis Pio Abreu ed è pubblicato da Voland. Si intitola Come diventare un malato di mente. Allora, In realtà lui parte da basi scientifiche, psichiatriche molto reali, parla di tanti disturbi, non so, della depressione, anche di disturbi molto seri tipo la schizofrenia, ma lo fa in modo assolutamente ironico e divertente. Ti leggo proprio due righe sull'attacco di panico, che forse è quello più conosciuto, insomma, sì, è quello più conosciuto. Allora, lui dice: attacchi di panico isolati non danno diritto a considerarsi malati. Per il disturbo di panico bisogna averne più di uno. Come fare? Beh, la cosa migliore è cominciare a preoccuparsi di più della propria salute e molto meno dei pericoli dell'ambiente circostante. Poi dà un altro consiglio. Vi consiglio di preoccuparvi del vostro cuore, di concentrarvi sul battito cardiaco, che dirlo a una persona che soffre di attacchi di panico significa farla morire. Dice, quella canaglia del cuore, oltre a potervi far venire un infarto, tende a battere per proprio conto e spesso in maniera imprevedibile. Ponete estrema attenzione al suo ritmo e non tarderete ad impaurirvi. Io veramente, vabbè, per ridere un po' di se stessi, sì, io veramente lo dedico a tutte le persone, magari sì, che hanno qualche problema, che può essere il panico, può essere veramente tante altre cose, insomma, e però hanno la capacità di prendere le distanze dal proprio disturbo e riderci sopra, perché è la cosa più bella che si possa fare in questi casi, secondo me. Mi piace molto il consiglio personale di Alessandra Tedesco, come diventare un malato di mente. Io lo leggerò sicuramente. Concludiamo con i consigli per bambini e ragazzi? Ma sì, bambini e ragazzi. Ritorna un po' prepotentemente Geronimo Stilton, lo sai, uno dei personaggi più amati dai bambini, e te li ho portati in ordine storico, diciamo. Va bene. Geronimo Stilton, con Geronimo Stilton la PM ha pubblicato diversi libri in questo periodo, all'interno ci sono anche dei giochi, insomma sono libri particolarmente estivi. L'enigma del brodo primordiale, quindi siamo nella preistoria. Sì. Poi il fantasma del Colosseo, e quindi vabbè, qui siamo all'epoca dei Romani, però è divertente per esempio se nei vostri viaggi c'è Roma come città di passaggio o magari come città nella quale andrete a trascorrere un weekend. Certo. E poi quello più avventuroso di tutti, sempre Geronimo Stilton, le avventure di Marco Polo, vabbè, già erano, come dire, un cult per i ragazzi, fatto in versione Geronimo Stilton per i bambini, è molto bello. Quindi da regalare ai bambini, da mettere in valigia e poi da rubare loro sotto l'ombrellone, perché sono davvero deliziosi. Sì, soprattutto quello, l'enigma del brodo primordiale, perché ha un sacco di giochini. Io mi stavo divertendo prima con la matita, sai, quelli unisci puntini, tipo bello, parole crociate, però bello, per bambini. Siccome io non sono capace di fare quelle alla Bartezzaghi, mettiamola così, allora queste qui, che il sudoku per me. Che sono invece la mia droga. Io il sudoku non l'ho mai capito, Marta. È che preferisco le parole crociate. Alessandra, consigli per l'estate, visto che abbiamo parlato dei libri, invece il cacciatore di libri da scaricare in podcast, assolutamente. Assolutamente, poi ti dico che ad agosto, cioè, sarete perseguitati dal cacciatore di libri, perché andremo in onda come sempre il sabato alle 6:30 del mattino e alle 22, prendete appunti, e poi vi farò compagnia anche tutti i sabati e tutte le domeniche alle 10 del mattino, finalmente non dovete svegliarvi all'alba per sentir parlare di libri. Mi piace molto questa cosa, quindi Alessandra, buone vacanze. Anche a te, Marta. E speriamo di ritrovarci ristrutturate, rifiorite, ripristinate. Hai intenzione settembre di farti qualche ritocchino? No, per ora no, ma chissà. Ma no, chissà, perché lo dicevi vai con una tale enfasi che ho detto magari ci ritorna, non so. Interiore, sì, quello soprattutto. Io posso solo augurare a tutti gli ascoltatori una bellissima estate, anche se rimanete in città. Aria condizionata, oppure ventilatore, oppure finestre aperte. Un bellissimo libro, divertente, ironico, commovente, interessante. Scegliete voi quello che volete, però volete mettere che bella vacanza. Un bellissimo consiglio, Alessandra, appuntamento a settembre. Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori. Il sabato del villaggio. E ritorniamo insieme per quest'ultima puntata prima delle vacanze estive. Lui invece non andrà in vacanza, perché ci terrà compagnia con tutti gli appuntamenti estivi per tutta l'estate di Radio 24. Buongiorno Manuel Giancale. Ciao Marta, come stai? Io bene, ho quasi le valigie pronte, infatti, non vedo l'ora di partire. Me la sono guadagnata però, me la sono guadagnata con tutti questi sabati in diretta. Io non ancora. Te la devi sudare ancora un po'. Va bene, Manuel, dai, tutti gli eventi di quest'estate per il nostro sabato del villaggio. villaggio, dove ci porti subito? Allora, oggi andremo, vabbè non proprio oggi, però andremo in Toscana. Andremo a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, dove ci sarà il Magix Festival della magia e dell'illusionismo. Mi piace un sacco questo illusionismo, io adoro queste cose che... Ho tanti amici appassionati di maghi e di illusionisti. Ma perché essere... rimani così, dire, ma che, cioè, sì, come io fai? Poi non voglio sapere i trucchi, perché sai che ci sono tanti che vanno a vedere poi su YouTube sì. i trucchi. No, io voglio credere che sia tutto vero. Ma come? Ma non, allora, non è vero, non è possibile ma che niente, sia vero. È illusionismo. Voglio crederci. Cosa succede? Domenica 7 agosto, con un ingresso libero, ci sarà tutta una rassegna in collaborazione con la World Magic Academy, l'Università Italiana della Magia, quindi qua si parla di alti livelli. Ci saranno grandi illusioni, magia comica, mentalismo. Il mentalismo è una cosa che proprio non riesco a capire. E ci saranno grandi artisti come Ernesto Planas Roldán, che arriva da Santiago de Cuba e farà tutto uno spettacolo con tutti i colori, la classe e il calore del ritmo sudamericano. Poi ci saranno i Disguido, che sono due folli attori esuberanti, un po' maghi, un po' mimi. Ci sarà Alberto Allivernini, che farà uno spettacolo misto tra comicità e magia. Insomma, un grande spettacolo, ovviamente tutto inerente a tutto quello che non si capisce alla fine. Sì, sì, che bello, voglio illudermi che sia tutto vero. Sono arrivati alla... 7 agosto, beh, 7 quindi agosto. Chi è in vacanza da quelle parti si può attrezzare. Sì, Castelnuovo di Garfagnana, provincia di Lucca, è arrivata la 15ª edizione, quindi è già parecchio che c'è questa manifestazione. Dove andiamo poi? Andiamo dritti, continuiamo a rimanere in Toscana a questo punto, andiamo in provincia di Grosseto questa volta a Capalbio, per Capalbio Libri. Certo, la conosco, cosa succede? Come la a Capalbio? Conosci? L'ho sentito, sì, la conosco, è un evento molto... Ahimè no, sono molto curiosa però di sapere cosa succederà Ci andiamo quest'anno, che sono arrivati alla 10ª edizione e dal 6 al 13 agosto, tutte le sere con inizio alle ore 19, ci saranno un sacco di autori che presenteranno sì i loro libri, ma comunque daranno la possibilità di avere dei temi anche abbastanza importanti. Per esempio, autori abbastanza importanti, c'è Mirta Merlino, conduttrice di La 7, certo. Che giovedì 11 agosto presenterà Madri, perché saranno loro a cambiare il nostro paese. Questo è uno dei tanti. Ci sarà Sergio Staino, disegnatore, fumettista, regista, sabato 6 agosto con Alla ricerca della pecora fassina. Ma è per quello che sono andato a beccare proprio questo. Antonio Padellaro, presidente della società editrice del Fatto Quotidiano, domenica 7 agosto invece presenterà Il Fatto Personale. Poi tanti altri nomi. Tutto c'è scritto sul sito capalbiolibri.it. 11 agosto, doppio appuntamento alle 19 e alle 21.30 con Mirta Merlino e poi una lettura di Enzo Tortora, Lettere a Francesca. E questo è per quanto riguarda la 10ª edizione di Capalbio Libri, che ti piace, ti interessa secondo me. Moltissimo, grande lettrice e molto curiosa, non chissà, potrei anche passare dalla Toscana, non lo so ancora. Quest'estate ti farai un viaggetto lì? Non ho ancora deciso, per il momento solo Svizzera, perché vado al Festival di Locarno, gli ascoltatori lo sanno. Altre mete che magari potrei esplorare, suggerisci un po'. Puglia, Locorotondo, provincia di Bari, 12ª edizione di Locus Festival 2016. Ci sarà in quel magico angolo della Puglia chiamato Valle d'Itria, che è la parte meridionale dell'altopiano delle Murge, veramente eccezionale, ho visto delle foto bellissime. Vabbè, lasciamo perdere questo perché poi io ho voglia di andare in vacanza. E tema di quest'anno del Locus Festival è lo spazio, tutto quello che riguarda gli spazi grandi, enormi, belli anche, quindi l'atmosfera, tanto per dire. Sul sito locusfestival.it ci sono tutti gli appuntamenti dove poter sentire musica veramente bella. E vi devo segnalare per forza, perché sono poi andato un attimo ad ascoltare, e ci sarà Sam Shepard, un ragazzo giovanissimo neuroscienziato inglese. Accidenti. Chiamato Floating Points, che fa un suono eccezionale. Floating Floating Points mi incuriosisce. Sì. Hai detto neuroscienziato. Sì, un neuroscienziato inglese. Non so come mai alla fine si sia buttato nella musica. Cioè, adesso lo posso anche capire, perché effettivamente il suono è eccezionale. Io lo trovo eccezionale, poi non lo so. Mi piace molto. È un po' d'aperitivo, vero? Sì, un po' d'aperitivo da serata al mare. Quindi ci siamo. Ti ho portato in spiaggia. Infatti. Trattando di aperitivo, però. Sì, più sì, o meno, più sì. o meno, se si può così dire. Abbiamo un po' di vino da bere. Cosa stappiamo? Dove stappiamo? Andiamo in Puglia, in provincia di Taranto, a Maruggio, dove c'è il direttore artistico Umberto Summa, che ci spiega tutto del Primitivo Jazz Festival 2016. Quest'anno è il nostro primo anno con le tre serate. Poi noi abbiamo fatto sempre due serate a edizione. Questa è terza edizione, quindi tre serate. E abbiamo un programma abbastanza vario. Partiamo dal 5 agosto con le eccellenze del nostro territorio, quindi avremo la proiezione di Vino su Tela, che è un film documentario sull'arte enoica di Arianna Greco, con la proiezione di Agnese Correra, quindi parla appunto della tecnica dell'arte enoica, che consiste appunto nel dipingere utilizzando il vino, che nel nostro caso sarà vino primitivo. Poi invece il primo spettacolo, il 5 agosto, sarà quello con un'importante istituzione, l'ECCS, che è il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, con la quale noi del Primitivo abbiamo voluto organizzare una masterclass di perfezionamento con il percussionista del Teatro alla Scala, il maestro Giuseppe Cacciola. Il 6 agosto poi ci spostiamo invece nel panorama del jazz nazionale, con la presentazione del nuovo lavoro di Felice Clemente, che si pone come uno dei progetti pianless più importanti e più all'avanguardia del nostro panorama jazz, e con il bellissimo nuovo progetto di Mirko Signorile, che è Soundtrack Cinema, dove appunto abbiamo il pianista che fonde la musica jazz, quindi l'improvvisazione, allo stile classico delle colonne sonore dei più importanti, tra cui Morricone, Piovani e così via dicendo. Il 7 agosto invece è la nostra serata internazionale, dove appunto ospiteremo la pianista Sochu, che presenta il suo nuovo disco Ballerina, accompagnata appunto dalle note del grandissimo sassofonista Javier Girotto, argentino di ormai nostra adozione, e poi un duo veramente particolare sia per le sonorità sia per quello che è poi l'accostamento di due strumenti. Infatti avremo il flauto di Gianluca Milanese, accompagnato dallo storico bassista prima Caravan e poi Camel, Richard Sinclair, quindi veramente un bel duo. E questo è il nostro programma, abbastanza vario. Ma nel programma però c'è anche il vino, giustamente? Assolutamente, perché noi pensiamo che il vino sia esattamente la degustazione del vino, vada di pari passo a quella che poi è la, se così possiamo chiamarla, degustazione del jazz, ossia un momento veramente importante dove va tutto preso nel dettaglio. Come diciamo noi, una qualunque bollicina può cambiare il gusto di quello che si sta ascoltando, e nel nostro caso anche di quello che si sta andando a degustare. Per questo da quest'anno, ma anche negli anni precedenti, quest'anno in modo ancora più importante, abbiamo avuto il legame con il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, una delle eccellenze della produzione vitivinicola pugliese e del simbolo del nostro Made in Italy. La Tosca, perché la Tosca, Manuel? La Tosca perché ti porto a Taormina per il Taormina Opera Stars, seconda edizione. Quest'anno andrà, lo potremo vedere il 2 di agosto e il 4 di agosto. Ci saranno due spettacoli veramente eccezionali al Taormina Opera Stars. È un po' una rappresentazione in chiave completamente siciliana, e adesso ti spiego anche il perché. Allora, si potrà vedere la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni il 2 di agosto, mentre invece il 4 di agosto la Tosca, appunto. Però tutte le persone che ci lavorano dietro sono tutti siciliani. E quindi questa era la cosa bella per la quale te l'ho segnalata, l'abbiamo segnalata ai nostri ascoltatori. Perché... Immagino al Teatro Antico, quindi sì, già solo quello. Teatro Antico di Taormina, sì sì sì, assolutamente sì. Quindi se volete andare in Sicilia, il 2, il 4 e il 22 e il 24 si replica, ci saranno appunto queste due rappresentazioni bellissime, opere veramente bellissime. Straordinario, poi Taormina, cosa? Il Teatro Antico, è fantastico. Sono, non ci sono mai stato. Affezionata. No, io sai, ogni anno vado al Festival del Cinema, quindi sono abituata. Ma sono quando è che mi porti a, stare... a queste cose? Perché ti porterò. Vabbè. Altre tappe, siamo... Andiamo magari... in Emilia Romagna. Cambiamo sponda, andiamo verso l'Adriatico. Andiamo in Emilia Romagna, andiamo a Cesena e a San Mauro Pascoli, perché ci sarà... A cielo aperto alla quarta edizione, siamo arrivati alla quarta edizione, inizierà il 2 agosto, poi il 5 agosto, il 31 agosto, quindi si passerà poi alla fine del mese, però ci sono dei grandi nomi da ascoltare, una rappresentazione musicale bellissima dove inizia proprio domani sera, tra l'altro, quindi domani sera il 31, Nicolò Fabi. Con, adorabile. Nella Villa Torlonia. Mentre invece alla Rocca Malatestiana ci saranno The Scatalitis il 2 agosto, il 5 agosto i Verdena, che avranno l'unica data in Emilia Romagna per il loro mini tour estivo, e poi invece si passa a fine agosto, dove ci sarà Edward Sharpe e The Magnetic Zeros con una sonorità folk rock accompagnata poi da una buona dose di psichedelia. Quindi tutti coloro che amano questo tipo di genere musicale, perché no, andare a farsi un bel giro in Emilia Romagna, Cesena, in quei giorni lì, dal 2 e il 5 agosto, il 31 agosto, 2 settembre, 6 settembre, insomma, un bel programma musicale. Poi in tanti sono in vacanza da quelle parti. Andiamo sì, con... Aspetta, sì. Perché volevo segnalarti una cosa. Sì. Durante A Cielo Aperto ci sarà una cosa bellissima, bicchiere amico. Cioè in pratica, aspetta, è molto semplice, perché in pratica hanno deciso di usare un solo bicchiere di plastica graduato e quindi adeguato a tutti i tipi di bevande, che pagando una sorta di affitto, tu in pratica prendi questo bicchiere, lo utilizzi per tutto l'arco del festival... E poi lo devi riportare e ti ridanno i soldini indietro. La cauzione, diciamo. La cauzione. Ma è una cosa bella, perché è green, diciamo. Certo, meno plastica, molto contenta. Bravo. Sì. Adesso abbiamo gli appuntamenti dell'ultimo minuto. Velocissimi. Ci sarà Francesco De Gregori stasera all'area esterna Shopville Le Gru a Torino. Dalle tue parti. Fiorella Mannoia in Piazza Duomo a Trento. Alex Britti invece per Il Luglio Suona Bene a Roma. E invece vi segnalo domani Annalisa alla Cava delle Roselle a Grosseto. I Dear Jack in Piazza Umberto I a Casalbordino a Chieti. E poi Zibba, che lo troviamo a Treviso proprio domani sera. Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me. Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore noioso e volgare, spesso nemico del tempo. Beh, con Zibba mi colpisce al cuore, gli voglio molto molto bene, è tanto bravo Zibba, grazie per questi appuntamenti questo fine settimana. Allora ci ritroveremo e ti ritroveremo perché sarai in nostra compagnia con un sacco di appuntamenti estivi per tutto il mese di agosto. Grazie a Manuel Giancale, che bella esperienza è stata quella di lavorare insieme a Salotto e il Villaggio, speriamo Guarda, di poterla ripetere. Se noi non vorrei dire, ma sono io che ringrazio te tantissimo. Ragazzi, sapeste quanto sono stata pedante, noiosa, una maestrina, noiosissima. Non è vero. Grazie Emanuele, buon agosto, a presto. Ciao. A guardare, al buio non è affatto uguale senza di te. È una finestra senza vetri senza di te. È un po' un'estate senza il mare senza di te. Non mi ricordo come fare. Tocca il ruolo di amante neutrale, sei la tua parte migliore, quello che riesce ad uscire ogni giorno da tutto quel tuo lavorare. Hai conosciuto il mio peggio e con il tuo mi hai fatto male. Le cose semplici ai vigili urbani, a noi una città più reale. ci scopriremo nel tempo, per poi coprirci con cura, e costruiremo sbagliando, e forse non avrò paura, e regalandoci vita, scambiando sangue e opinioni, vedremo i giorni fiorire negli occhi di un figlio che avrà i miei bottoni. Credo in noi come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che aspetto anche tutta la vita per vederti tornare dalla guerra mondiale. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te. Ma io Zibba me lo ascolterei per intero, però no, perché tra poco dobbiamo dare la linea agli aggiornamenti per il traffico, quelli delle 16.45. Oggi lo sto ripetendo fino alla nausea, molto importanti, sì, perché tante persone sono in viaggio, la situazione non è agevole dappertutto, quindi tra poco gli aggiornamenti su strade e autostrade in Italia. Però poi ci ritroveremo ancora per un blocco del sabato del villaggio con un ospite d'eccezione. Tra poco sentirete quale ospite d'eccezione ho per il sabato del villaggio. Poi l'ora di RadioTube, tanti argomenti, ve li sveleremo tra poco. Ora però è il momento appunto del traffico e tra poco saremo ancora insieme al sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. C'è punti nel senso, oddio, adesso... Sì, ma oggi siccome è il 2 novembre, allora capito, fanno l'ironia facile. E però mi ha invitata a me. Se uno esordisce a teatro il 4 novembre, la domenica precedente cade di 2 novembre, è del tutto evidente che è involontaria la coincidenza. Ecco, uno debutta il 4, dipende dal 2. Perché non è ancora finita la giornata. C'è un'estrema unzione, eventualmente avete preparato qualcosa prima della mezzanotte, qualcosa, perché andiamo via così, essere cremata eventualmente. Beh, lei era la prima a scherzare, a far ridere, e diceva anche che era talmente appassionata e affamata della vita che era curiosa anche della morte. Ci ha lasciato Anna Marchesini, è stato veramente un colpo quando l'abbiamo saputo, e una delle prime persone a scrivermi e a dirmi parliamone questo sabato è stato Daniele Bellase, quindi l'ho già rapito. Sono in anticipo, sì. Sono arrivato una volta in anticipo, di solito arrivo sempre in ritardo. Anna Marchesini. È stato veramente un momento... Io non so tu, ma io ho consumato il VHS dei Promessi Sposi, sì. Parte che... Devo confessare che da maschietto mi piaceva tantissimo. Era bellissima, anche come, aveva un paio di gambe infinite. Poi lei aveva, sai che, non so, adesso non vorrei sembrare troppo filosofico, però Carmelo Bene parlava della macchina teatrale, no? Mm-hmm. Anna Marchesini era una macchina teatrale con il volto, cioè quando lei faceva i suoi personaggi recitava con ogni parte del volto, sì. E tu seguivi anche quello che diceva, ma in realtà dovevi guardarla nei minimi dettagli del volto anche per ridere e per riflettere. Era straordinaria, veramente bravissima. Forse nella televisione così... Non so, c'è Franca Valeri che ancora... Per me sì, però... Allora, i miei miti da bambina, io poi facevo tantissime imitazioni da bambina. Ah, vedi? Sì, io allora avevate imitavo. Questa sì, cosa erano comune. Anna Marchesini, Franca Valeri e Bice Valori. Vabbè, proprio un trio, manca Loretta Goggi e le showgirl. Sì, però più Loretta Goggi imitava personaggi esistenti, invece loro creavano dei personaggi. Sì, un po' lei sì, ha creato dei personaggi pazzeschi, non so, tu sai, quale a me quale piace tantissimo. Beh, immagino, visto l'argomento che ti mi piace, tantissimo. Quello che dici con la S bolognese. Sì, quando si parla di Sciascio. Merope Generosa, ce l'abbiamo un pezzettino di Merope Generosa, ce l'abbiamo. Ma anche un pezzettone, ascoltiamolo un'ora. Ha detto un pezzettone, eccola qua. Il volto. Il sesso maschile è uno. Ma l'oppetto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso in mezzo abbastanza nel mezzo... L'orgasmo è un... è uno, ma possono anche essere molti. Beh, molti, oddio, magari, ma l'orgasmo può anche non essere, ma di questa eventualità ci occuperemo a proposito dell'orgasmo femminile. Si può dunque definire l'orgasmo come il risultato a sorpresa di un accoppiamento tra un uomo e una donna. Ecco, quando un uomo e una donna fanno insieme, ma anche separatamente, dai che ti ridai, a forza di chiamare, l'uomo viene, ma anche la donna, no? Ma comunque sempre prima l'uomo, viene, dicevamo, sotto forma di un... anche visibile, sì. Elemento vischioso, sì, detto che anche fa bene alla pelle, scientificamente chiamato quello lì. Quello lì. Quello lì. Vedi che faceva ridere due volte, per sì. quello che diceva, per come lo diceva. Io da piccola ridevo, ma per come lo diceva, perché non capivo. Non capivamo, no, assolutamente. Non capivo, però era però fantastica. Il personaggio era unico e mitico. Tra l'altro era bravissima anche a teatro, perché poi dopo è diventata famosissima. Io li ho visti tutti, in principio era il trio, allacciate le cinture. Io andavo sempre, mi facevo sempre regalare il biglietto a teatro, perché erano veramente bravi. No, appunto, erano il trio. Tra l'altro Solenghi ha detto una cosa fantastica. Bella, oggi, sì. Ricordandolo, ha detto: beh, probabilmente, essendo sempre così scanzonata e tutto, oggi guardando le nostre facce direbbe: beh, cosa sono quelle facce? Sembra che sia morto qualcuno. È vero. Giulio Solenghi nel ricordarlo. Io sono d'accordo con Lord Lucas, che sì. è un autore di TV blog, che scrive: sarebbe una bella una serata evento su Rai 1 in cui le comiche fanno squadra e omaggiano la Marchesini, Ocone, Virginia Raffaele, sono tutte figlie sue. È vero. Tra l'altro il direttore Fabiani è stato tra i primi a twittare il ricordo, magari, chissà, è un'idea che lanciamo per l'estate, per esempio. E poi ho appena letto un tweet di L'Eroe Semantico che ha scritto, dedicandola a Anna: i tuoi promessi sposi li trasmetto ancora a fine anno per i miei alunni dopo un anno di Manzoni e ridono tanto. La monaca di Ponza. Mi sembra un'ottima idea, sì, dopo un anno in cui sì. massacri gli studenti col Manzoni. Che non si finisce mai, peraltro. Che non si finisce. Non si finisce mai, fai vedere il Manzoni del trio. E poi Simona Siri, l'amica Simona Siri, effettivamente si lamenta con qualcuno in qualche sito che ha parlato di lutto social per la photogallery dei tweet delle persone famose. Che no, ecco, lutto social no. Sì, vabbè, non quello mi piace. È una cosa che, insomma, chi deve lavorare all'online. Sì, però lutto fare, lo dico. Lo so. Ecco, però sappi, insomma, no, sappi che non mi piace. Non credo che ci sia. Ancora un po' di pezzetto, ma per esempio un pezzetto di che cosa questo, per esempio? Non lo so, ce l'ha scelto Christian Goldoni, sentiamo. È dolore. È morte. E lacrime. E paura. E silenzio. Grazie. Lamento. Lutto. Tormento. Che palle sto spettacolo! Vabbè, che unica, che anche perché lì si sente anche l'accademia sotto. Molta accademia. Hai visto che la gente rideva mentre lei era tragica, perché c'era questo, c'era il corpo, appunto, l'espressione, e poi vabbè, liberatorio, che palle sto spettacolo. Io lo dicevo ancora qualche giorno fa con gli amici. Vabbè. Ancora. Tra l'altro hai citato Tullio Solenghi, allora tantissimi i suoi personaggi, la cameriera secca dei signori Montagnier, sì, fantastica, sì. Merope Generosa l'abbiamo appena sentita, la signorina Carlo, siccome sì. che mi sono ceccata, fantastica, sì, sì. una delle mie preferite era Dolores. Te la ricordi Dolores? Era la protagonista della telenovela brasiliana. Perché sì, con il sincrono sbagliato. Stupendo, sì. Ma quella perché era erano gli anni in cui c'erano. Adesso magari se la vedesse qualche ragazzo di oggi la capirebbe relativamente. Sì. Erano gli anni in cui andavano molto di moda queste telenovelas, prima brasiliane e poi di altri c'era paesi. C'era quell'attrice famosissima, le faceva tutte lei. Sì, ma... A fasi. Ci sono stati c'era la Veronica faceva, Castro. Esatto, ne faceva 15. Sì, e però le prime erano state brasiliane e man mano che si andava avanti con gli anni, diciamo che la qualità di queste telenovelas era un po' calava sempre un po' di più e loro prendevano in giro la telenovela brasiliana con Pedro e Dolores ed erano fantastici, lei e Tullio Solenghi. Vedi, Pedro, deve essere qualcuno che suona alla porta. Ascolta, Dolores, io vado ad aprire la porta perché ho sentito un suono e credo proprio che sia la porta. Vuoi bere qualcosa, Pedro? Pedro, bevi qualcosa. Bevi qualcosa, adesso vedi, ricordando. E poi c'era anche il personaggio di Perito per aria. Sì. Che per anni ho... Quando chiunque mi diceva Perito, io rispondevo sempre per Perito per aria. Però Anna Marchesini, grandissima attrice, brava scrittrice, perché negli ultimi anni aveva anche pubblicato dei libri importanti. Moscerine, sì, poi insomma veramente da cui con uno spettacolo teatrale che lei portava in scena al momento di questa intervista da Fabio Fazio fino alla fine peraltro, la grande proprio grande attrice, brava scrittrice, ma anche una combattente, una persona che ci ha insegnato molto e della sua malattia parlava così. Io vi garantisco, io ve lo giuro che sono così interessata, appiccicata, morbosamente ghiotta e obesa di vita proprio. Sono così interessata della vita che mi interessa pure la morte, che di essa è il finale e non è detto. E come parlava, no? E poi questa ironia, no, adesso veramente... Che è la cosa che vorremmo veramente imparare tutti, perché un po' tutti, fosse è il rimedio di ogni problema. E lei riusciva ad averlo appunto nelle espressioni e nelle parole, nella vita, nella battaglia appunto. Incredibile, incredibile. E, non lo so davvero, io spero di vedere presto I Promessi Sposi in TV, visto che tutti stanno invocando la riproposizione dei Promessi Sposi. Le avevamo invocati sposi anche tempo fa. Sì, poco tempo fa avevamo parlato. Ma perché non si vedono più I Promessi Sposi con Lucia Mondella qui si illuminano, sì. si illumina la coroncina. Allora, è praticamente il momento di chiudere Il Sabato del Villaggio. Ma mi devo cambiare anch'io, visto che tu di solito tra ci si cambia Sabato d'abito del Villaggio e Radio ma no, adesso che sono qui nel Sabato del Villaggio mi cambio anch'io. Finta. Chiudete un attimo le tende che dobbiamo cambiarci. Che magari gli ascoltatori ci credono davvero che mi cambio d'abito. No, dico ci cambiamo d'abito, ma solo succedono cose. Succede di tutto. Però ecco, questo non no. Non di sabato. No, questo no. Semplicemente cambiamo la sigla, cambiamo atmosfera e di solito arrivo un conduttore che per questa volta ho rapito un quarto d'ora prima, così per questo ricordo di Anna Marchesini. Parleremo di molte cose, parleremo di Airbnb, ho scoperto. Sì, no, stupendo, questo è bellissimo, ma ne parliamo con un ex sindaco, un ex ministro, cioè insomma non è che parliamo di social, okay. Visti. Parleremo della giornata mondiale della gioventù di Cracovia e andremo praticamente a Cracovia, come se ci fossimo se anche Dondino noi. Dondino si è svegliato però, eh? Si è svegliato. Perché sui social c'era una foto. Che stava un po' rompendo. Si riposava. E poi parleremo di Stati Uniti con due ospiti che sono già arrivati, hanno già twittato Malandrini una foto che ora retwitto. Sì. E però tutto questo tra poco, perché adesso è il momento del giornale radio delle 17. E noi ci ritroviamo tra poco con Radio Tube. Ciao Anna!